F. Ascolta e indica la parola che senti. 1. Dov'è il corso? 2. È una giacca di lana. 3. Sara è in classe. 4. Sono le foto di Mauro. 5. Siamo al mare.